son vinta d'amore, fremo irata e pietosa mi strufo, quel che fuga, più deggio bramar, più deggio bramar, più deggio parlar. Trafitte il mio cuore, d'odio parla, son vinta d'amore, fremo irata e pietosa mi strugo, quel che fuga, più deggio bramar, più deggio bramar. Bravo!